costringe. Tutto intorno a me, sul tempo che non hai, lo perderai. Non chiedermi se esiste qualcosa che non c'è, ma se tutto ciò che vuoi lo hai, non basta mai. Noi non ci guardiamo da un giorno fa, sai quanti secondi un giorno ha, ma per sé l'amore cos'è? Amore, non sai quanto piangerai, senza mai sapere perché lo fai, ma per sé vai. Lui, eh? Ho voluto prestare le sue parole sulla canzone, è stato molto molto bello, spero vi sia piaciuto, vi è piaciuto.